Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Mellis. Se parliamo di energia in questi giorni, la notizia è una sola: gli aumenti in bolletta stabiliti venerdì scorso dall'autorità. Li analizzeremo approfonditamente nei prossimi giorni a partire da domani. Questa sera ci concentriamo sull'altro lato della medaglia rispetto a quello dei costi. Parliamo evidentemente dello sviluppo industriale del settore, industriale ed economico, di cui proprio domani l'Istituto Altesis presenterà a Milano una fotografia aggiornata. Parliamo dell'IREX Annual Report, un report appunto dal titolo L'Italia delle rinnovabili negli scenari globali, investimenti, competitività e prospettive. Una fotografia di cui troverete un'ampia sintesi domani in edicola nel rapporto che il Sole 24 Ore dedica all'efficienza energetica, che trovate allegato al quotidiano. Noi però stasera possiamo già darvi qualche notizia in anticipo su quanto verrà detto appunto domani a Milano, con l'aiuto di Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Altesis. Buonasera Marangoni. Sì, buonasera a voi. Allora, intanto mi pare di capire una cosa, che questa è una fotografia che parte da un punto di vista, per così dire, finanziario. Ecco, ci faccia capire un po'. Sì, certo. Il nostro rapporto considera gli aspetti industriali e finanziari del settore delle rinnovabili in Italia e quindi si focalizza soprattutto su quella parte di investimenti e di attività cosiddetti utility scale, cioè di taglia operatori, insomma. Quindi esatto. Diciamo che in questo vostro rapporto cade non proprio tutto, diciamo, l'indotto intorno alle rinnovabili. Ne cade una larga parte, ovviamente con una rappresentatività diversa a seconda delle fonti. Nel caso dell'eolico direi che copriamo il 99% della realtà, nel caso del fotovoltaico ne copre una quota inferiore, nel caso viceversa delle biomasse siamo a metà strada, nel senso che copriamo comunque una parte significativa del comparto. Allora, complessivamente quanto hanno movimentato le utilities quindi in Italia? Complessivamente noi abbiamo mappato nel 2011 circa 8 miliardi di investimenti utility scale. Parliamo nel complesso di 223 operazioni di grande taglia tra investimenti, nuovi progetti, nuovi impianti e operazioni di finanza straordinaria di merger e acquisition. 8 miliardi che sono una cifra significativa. Sì, indubbiamente sono una cifra significativa, rappresentano grosso modo lo 0,5% del PIL nel 2011, un anno in cui, ricordiamo, il PIL è calato di circa un punto. E mezzo. Purtroppo questa è l'ultima novità. A proposito di novità, ci sono dei dati molto interessanti sul fotovoltaico che sono venuti fuori da questo rapporto, anche un po' sorprendenti. Sì, certo, noi abbiamo esaminato costi e ricavi della produzione fotovoltaica e abbiamo visto che nell'ultimo anno si è ridotta notevolmente la profittabilità dell'investimento, cioè a dire che se nel sud Italia la differenza fra costo e ricavo di un kilowatt era il 22% un anno fa, oggi è scesa a poco meno dell'1%. Nel caso degli impianti in Nord Italia la differenza tra costo e ricavo, che era circa il 7%, è addirittura diventata negativa ed è arrivata quasi al meno 4%. Quindi come dire, non è conveniente economicamente mettere un impianto fotovoltaico se si deve contrarre un debito pagando il costo del denaro per realizzarlo, perché mi pare di aver capito che il problema principale è questo. Sì, il problema è questo, perché i costi della tecnologia, come noto, nel fotovoltaico sono scesi e anche in maniera molto marcata. Viceversa è aumentato il costo del debito e sono diminuiti gli incentivi. Ecco, ma tra la diminuzione degli incentivi e l'aumento del costo del denaro, quello che impatta di più qual è? Ma indubbiamente in paesi come l'Italia o la Spagna o la Grecia il costo del denaro. Anche se in questi giorni si parla del fotovoltaico come uno dei principali responsabili dell'aumento del costo dell'energia, c'è anche l'altra faccia della medaglia, un effetto che viene chiamato peak shaving. Sì, un effetto indubbiamente positivo è quello sul prezzo dell'elettricità sui mercati elettrici. Che cosa vuol dire peak shaving? Vuol dire che nei momenti di maggiore domanda, cosiddetti appunto di picco, la maggior offerta prodotta dalla produzione fotovoltaica fa scendere il prezzo all'ingrosso dell'elettricità. E questo è un dato che tra l'altro torna, lo dico per gli ascoltatori di Smart City, perché era emerso proprio parlando della tariffa anche bioraria, era emerso che in certe ore il costo dell'energia non era aumentata grazie al fotovoltaico. Quanto abbiamo risparmiato grazie a questo effetto di smorzamento del picco di costo dell'energia? Certo, la nostra stima per il 2011 parla di circa 400 milioni di euro di minor costo di risparmio dovuto all'effetto picco del fotovoltaico. È un valore che, visto in termini unitari, si colloca fra i 2 e i 14 euro a megawattora. Contro un costo diciamo di 70-80. Contro, no? Un costo per di 70-80, e che è un valore allineato a quello che è successo e rilevato in altri paesi, come ecco, ad esempio in Germania. Questo è accaduto nella borsa elettrica, cioè gli operatori hanno pagato un po' meno l'energia. Secondo lei anche i cittadini hanno pagato meno l'energia? Si è riflesso sulle bollette dei cittadini questo? Beh, è un dato di fatto che il sistema Italia nel suo complesso ha avuto questo minor costo. Difficile dire se sia rimasto nei dividendi delle società o nelle tasche dei cittadini. Ecco, il risparmio di CO2 è invece uno di quei temi che magari può sembrare un po' più astratto. Invece presto si pagherà una tassa, una carbon tax, e quindi diventerà un po' più concreto. Qual è stato l'impatto di questi investimenti sulla riduzione delle emissioni di CO2? Beh, è molto consistente, perché noi al 2030 stimiamo una riduzione di ben 83 milioni di tonnellate, che vuol dire da qui al 2030 dai 100 ai 130 miliardi di euro, che in realtà si pagano già, perché sono sui certificati di Kyoto. La carbon tax potrebbe essere un ulteriore aggravio. Grazie Marangoni. Grazie a voi, buon lavoro. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.